Luca, Luca, attento, cuffa, cuffetta. Attento, cuffetto, qua ci facendo c'è? Tore, Tore. Chiameri, chiameri. Illu. Chiameri, soffiano le palline, stai anche tu. Illuso, Mari. Fidati che drummito. Tufo, non rispondi a Illu. Tufo. Capito su. Illu. Ciao Mari. Oh Lu, ma le vedo queste, le antenne di questa radio? Mi si è piegata. Tu mi senti bene con questa? Perfetto. Ma è contenta, l'altro giorno mi si è piegata, l'ho riaddrizzata, però non è... ma... carità. Ma se la trucchi, io sono questa trucca da sulle B. Ah, quella c'hai. È comoda, piccola. Quanto ne chiedi quella, quanto costa? Mi pare l'avevo pagata un euro. E beh, non me la ordina a me. L'avevo presa da Wish però, capito? È piccolina e sembra che vada molto molto bene. Anche nell'altra cosa che hai visto lì nella foto, allora c'era un tubiglia. Segnatela quella là comunque che ti ho mandato nella foto. Aspetta, in Italia è tutta... La più barata costa 10 euro, soluzione. Ho capito, no? Che stai dicendo? Che ce l'hai? Ho detto in Italia costa 10 euro, soluzione compresa. Che te? Io l'avevo presa là, come ti ho detto, in Cina, la più barata è un euro, 1,50 euro. Ma c'è la sua originale? La sua originale? Ah, sì, questa è stata guardata. E anche se c'è la tua radio, tanto vari, gli animali russi. No, ti do l'originale di questa. Ti do fino a fine, no? Ma là non c'è nessuno però. Sì, va bene. Quelle lì costano dei 10 euro. In Italia, Cina costa quella lì, che sarebbe il modello, vabbè, quello lì, qua, questa lettera costa, in Cina costa 1,75 euro, mentre questa che sto usando io costa 1,49 euro, spedizione completa, puoi immaginare. Allora, quello che hai preso tu, cioè 1,49 euro, sì, sono 10, ma la batteria sembra. Poi c'è questa qua, eh? Ah, questa qua, no, vabbè. Ah, vabbè anche per questa. 7 euro. 7,90. Facciamo 7 più 2, 9 euro. Ma, guarda la Diamond, però in Hong Kong, la Diamond, 1,03 euro più 0,11 euro. È uguale a questa, solo che c'è la marca Diamond. Ma c'è comunque per questa qua, 5 euro costa, provenienza Cina. Quella flessibile costa 7,90. No, c'è 13 euro costa, la tela originale. Che è? Costava 27 euro, più della radio. E te lo sto dicendo, non conviene comprarle qua. Bah. Sai, ha un Radio Maria. Ecco, se me la vende lui, altro lui non la usa più. Se me la vende lui. L'originale. Lui no, perché non la usa. Ma quanto ho capito, no. Cioè, 6,68 euro costa, antenna per qua. Questa va benissimo, è piccolina e va benissimo, dappertutto. Ma sicuramente ce ne sono tutte le taglie, anche più piccole. Tu pensa che tutto l'apparecchio, quello lì che hai tu, costa 38 euro? Costa. Ho visto, 38 euro. 38 euro costa, allora. Proposta d'acquisto anche. Proposta d'acquisto. Se puoi immaginare, le fai 33 e fatti accetta. Ma oh, iaia. Ma dopo si lamentano anche in Italia non comprare già più. Quello sta vendendo 35 euro usato. E costa 30, 40 euro nuovo. Ma era una stessa cosa il quell'altro piccolino, W3. W3 ne costa 20 euro e lo sto vendendo a 30 usato. Ne sono due. Due, 71 euro. 71 euro e 09 centesimi. E uguale a questo qua. Con due microfoni, due radio, due antenne, due caricabatterie, 71,09. Con proposta d'acquisto. Infatti. Mi adesso stavo guardando due antenne come questa qua, 2,33 euro spedizione compresa. Allora dimmi tu. Uguali di. Allora, 10 di quelli 400 euro. E vengono l'uno? 40 euro. Vero. 5 per 10 40. No, 5 per 10 fa 50. 5 per 10 fa 50, esatto. Sì, comunque 40 euro l'uno. Vedi, non conviene. Cioè, se uno ti dice, ti fa il coso, 40 euro l'uno, ti fa il giro di conti, non conviene. Cioè, se tu mi fai il prezzo di 10, me lo fai 20 euro, 25, allora fai 10, 250 euro invece che 400, c'è la possibilità che te li comprino. Ma se tu metti il prezzo di 1 per 10 radio, lo stesso non te li piglia nessuno. Perché quella radio costa appunto così una, quello è. Dove la convenienza di acquistarne 10? Ma infatti, sì, giusto, 4 per 10, 40. Pensa che con questa... con questa qua di antenna, la casa di mia suocera, che è dalla parte della strada, no? Mi sente Marino, se puoi immaginare. Sì, ho capito. Con questa di antenna mi sente Marino da casa di mia suocera e in più dalla parte della strada, anche dalla parte dei giardinetti, mi sente Marino, che è dalla parte opposta, se puoi immaginare. Ho capito. Vabbè, comunque... vabbè, già mi senti, ma pigiata, proprio se... non me ne capisco, mi spremi, si è proprio piegata l'antenna. Perché c'hanno quello stilo fino fino? Boh, chiedi la Giammaria. 42,99, proposta di acquisto, spedizione gratuita. Quel modello lì. Quel modello lì, a Torino. A Torino. 42,99, spedito, ho proposta di acquisto. Se non vedete, non è che ha vinto l'antenna. Infatti. No, vabbè, non me ne posso nulla. Non me ne posso nulla di questa radio, ma sai, ma già non entra nessuno. Aspetti, mando la foto di questa originale, perché non so se abbiamo lo stesso attacco. Mi sa è diverso. Guarda, ti mando la foto. È uguale. Sì, è uguale. C'hai la femmina anche tu dentro, la stessa cosa nel mio, sì, è uguale lui, preciso. Ti va bene quella là? Ti do quella là, tanto io non la sto usando, poi me ne avevo costruito due o tre, così che no, l'originale non la stavo più usando. Prova. Sta andando, posso, prova. E lui ha detto buffetta. Ciao Mari. Ehi, c'è doccia, che ti faccio? Non mi tossi domani. Non mi tasso. Mi ti stavo chiamando a due ore, bimbo. Lo senti? E chi? Chi è che mi stava chiamando? Sai che chiamava Gio Maria poco fa, avanti. Gio Maria c'era. Dove era Gio Maria? No, ho detto, che c'era uno che si stava chiamando, io gli ho detto, avanti chi stava chiamando Gio Maria, non è che c'era un altro Gio Maria. Ah, ho capito male. E chissà chi era, è stato il bello. E beh, che storia l'hai lui? Ma chi no? No. Beh, guarda, ti ho mandato un altro video. Guarda, se mi senti, questa è quella che ti ho mandato nel video adesso. Aspetta, questa che sto usando adesso e te l'ho mandata nel video, che ti ho mandato, non so se ti è arrivata ancora. A questa qui basta che poi li metti una la guaina termorestringente, nera, ed è bella. Basta guardare, aspetta. Pensa che sono dalla parte opposta dell'appartamento. Arrivi benissimo, a voglia. Adesso sto usando quella lì. Aspetta un attimino, ti faccio il video di corso. Allora, va 1, 2, 3, 1, 2, 3, come mi senti? 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola, hola, sa chi butta? Che bada? Ilu, Gio Maria, Ilu. Cosa c'hai Lu? Comunque va bene, Lu, va bene, a buia. Va benissimo, sia questa che quell'altra. Te l'ho detto di cosa è fatta questa. Bah, mi viene mezza capare risa. te l'ho detto, poi basta rivestirla con una guaina termorestringente nera. Ed è bella lo stesso. Ho visto. No, Gio Maria, siccome a Luca le sto dicendo che mi è caduta la radio in terra, no? Uguale alla tua, mi si è piegata l'antenna, è tanta barriduscia, capito? Ma poi, boh, è strana, gira tutto. Non ho capito allora. Ho detto a Luca, siccome mi è caduta la radio in terra, già due volte, due o tre volte, e la terra si è piegata due o tre volte, no? E l'ho riaddrizzata, ma è tutta storta, capito? Secondo me sta anche difettando. E gli ho chiesto a vedere se c'era su internet, se la vendevano. Si deve di questa più l'antenna che la radio. Può essere anche. Dalli la tua, Gio Marì. Cosa? Dalli quella originale tua. E quale? Quella di quell'apparato portatile. È portatile. Certo. Vabbè, di che apparecchio? Del 3. No, capire cosa fa, cosa tratto. Già te la do io l'originale mia. Dai a lui, tu l'originale che c'hai tu. Ma lui voleva l'originale così, sua, capito, quella fina fina. Io non la do la mia, del 3 no. Catta, ci mancherebbe altro da lì quella. No, saranno, lui. Ah vabbè, no, io me la compareggio, no, adesso dal telefono non vedo capitolo bene le cose, no, non me l'hai dato, tu c'è dal computer, è più scelta, no, me la ordino e via, dai, cosa? No, ne ho un'altra precisa io, che me l'aveva preso il Torre Squadra, me l'aveva presa, ed è quanto quella del 3. Ed era per quell'altro apparecchio che non ci sentivamo lui, ti ricordi? Me l'aveva ma fatto avere il Tore. Se penso che vada bene anche quella. Quando hai parlato in due, ripeti lui. Ho detto, se vuoi per forza l'originale ordinatela, perché io non ce l'ho quella lì a stilo fino fino, se no ti davo l'originale mia. Capito che va benissimo lo stesso, tanto io uso la suppostina, ho detto, oppure uso l'altra, quella autocostruita, che va benissimo lo stesso. Prenditi questa, Lu, che vanno benissimo, prenditi la suppostina. Aspetta, mi stavo mettendo gli auricolari, sono disturbo qua, stavo alla televisione. Mi senti bene, sì, Lu? A voglia. Mi ha Marino in garage, anzi a Bacchisio, in garage. Ehi. E adesso già entrerà fra poco, dai. Ma beh, sto uscendo lui io. Sì, a voglia. Da me sì, Gio Mari. Io che non mi interessava, va. Perché ho cambiato il deviatore qua. Oh, Anche se l'antenna mi sento perfetto, ma strano però lui. Sì, vabbè, però non trasmettere, no. Stavo provando, infatti. Segnale la carriera di meno, però la radio era buonissima, senza antenna. Sì, siamo attaccati. E tu? Boh. Va bene, va bene, va benissimo. E beh, non ce l'ha per lui l'antenna tua. Non te l'hanno data l'antenna originale con l'apparecchio. A me? No, a Montanaro. Sì, Giovanni, tanto perché ho detto la sei piegata. Ah, piegata, sì. Ecco, io ne una, se va bene te la do, però non è l'originale della 3, capito? È l'altro apparecchio, però dovrebbe andare bene ugualmente, perché sono precise. Sì, male mi brucia la radio. Allora mi andrò a girare, ma sicuro. Vabbè, non c'è problema, no, vabbè. Ah, domani mattina. Appena è andato, ti piace qualcosa nella carta, me la ordino. Sì, a costa poco, tanto dai. Almeno sei tranquillo che l'originale sia a posto, dai. Ah, io guarda, quando avevo preso questa qua piccolina, era. Mi era giocata l'originale subito. Perché questa è comoda, perché è piccola veramente e va benissimo dappertutto. A Puglia. E qua è quella piccolina, quella che è quanto il dito. Ti ho mandato la foto anche. A me, io c'ho a vederla. Giovanni, piccolina, guarda il pollice. Allora ce l'ho anch'io quella lì. Lui mi sembra che me l'ha ordinata tu. Mi pare sì. Mi sembra che l'avevo ordinata anch'io questa qua. Mi lascio tornare. Allora va bene, dai. Ma forse quella lunga è migliore, dai. Non è vero, no, Giovanni. Io penso di sì, poi non lo so, bisogna a vedere un po', fare la prova, vedere un po'. Questa va benissimo, se lo stesso sì, i furi te lo devi mettere in tasca, capito? Ah, le stesse prestazioni, né più né meno. Se mi dice per quello va bene. Ma a casa per esempio è meglio usare l'originale, dai. Ma te la c'è ancora la pentola? Per il momento no. Qualcosa di potente mi servirebbe, se ne hai, perché io ne ho una velocissima, tipo quelle dei processori, quelle lì sono veloci. Vale. Qualcosa c'ho? Di alimentatore ne ho, a Sergio Maria è costruito adatto. E anch'io ne ho di alimentatori, di case, che sono uguali poi. Ah, quelle dei processori sono buone, però quelle grandi, dei processori, quelle vanno benissimo perché girano a 1000, perché poi si devono raffreddare e fermarsi, e girano ben forte. E poi lui, per quanto... Cioè, se ti ricordi... Mirko, parlavano di macchina decisori. Come si chiama? Dell'alimentatore è andato Gio Maria, no? Volevo mettere il coso per attivarsi automatico, per entrare, che scalda, no? La ventola, come si chiama? E il termostato li puoi mettere. Io devo piazzare, via. È stata la foto, come quello che avevo preso io. Facciamo una cazzata al dissipatore, e basta, regoli solamente dal termostato, ti regoli a che temperatura si deve azionare la ventola e a che temperatura si deve spegnere poi. Questa è la base, dai. Prova. Illu! E vabbè, me lo faccio. Giovanni, quella è la metà che mi ha dato tu, capito? Beh, lo sta funzionando bene. Benissimo, non bello, benissimo. E gli ho fatto delle piccole modifiche, dai, gli ho aggiunto un'altra uscita, dai, due. Cosa gli ho messo? Non mi ricordo. Comunque gli ho fatto delle piccole modifiche. Adesso appena mi ordino la sonda, quando si chiama, così la ventola si attacca quando entra. Volta scalando troppo si attacca automaticamente. Ah, ecco. Allora sei tranquillo, dai. Allora sei tranquillo. Ehi, termostato, dai. Ma certi ce li hanno, certi non ne hanno, così è lui. Infatti, molte sono fisse. Cazzo. non so, io quello che ho io ne ho due, ma uno mi dà molto alternata e non lo già mi sembra che te l'ho fatto sentire in campagna, in campagna. Ma per lo stereo già va bene, ma per l'apparecchio no. L'apparecchio va da meglio, Mari. Diciamo che non sono super, come si dice, ma non hanno, si sentono, là, sono fatti così, non sono fatti con criterio. Uh-huh. Ma vanno non bene, a me mi sono trovato bene, dicevano vanno bene, chi l'ha detto? Ma c'è purtroppo bene. Infatti siccome devo provare l'autoradio, mi aggancio lì, tanto quello mi sa che era, quanto era, 15 ampere, 20, boh. Boh. No, quello che c'è uno era da 35, l'altro era da 50. Così è lui, mi sembra, Non lo so quale c'ha lupa. Ma non mi so problema, non c'è sembra trasmettato io quello che c'è in campagna, cioè, non mi so problema, in campagna c'ho quell'altro da 25 ampere della delta giga, che è 40 anni di radio si è alimentato adesso e per funzionare di me. Chi su quello là va bene, quelli switching vanno benissimo, capito? A me il problema non me ne ha dato. Quindi, che è? Uno non è scalmato, però è uno di quelli che c'è, uno non è scalmato, l'altro è scalmato. Così che no, già l'ho messo da una parte. Mentre quello che c'è tu già è scalmato. Quello che è andato a me è scalmato, Sì, quello è scalmato. Ah, ma ripeto, io mi trovo bene, no, non ho problemi. Sì. Meglio che si va. Fanno bene, per cui, capo. La radio è fortissima, la più forte la tua che quella di Luca. Questo sono gli auricolari adesso, mi viene bene perché l'area è appoggiata, certo questo cazzo, questa radio è in mano, mi vedi Mari. O lui è quello che tu gli hai aggiunto il tastino, capito, sopra, l'accensione. In più gli hai messo le bananine, capito? Perché quando l'ho aperto l'ho visto dentro. E l'ho un po' modificato diversamente. Ma lui ne ho fatto più di uno, non mi ricordo quale ti ha dato. Domani ti mando la foto. Dopo arrivo a casa ti mando la foto, faccio vedere qual è. Ah, va benissimo, mi sono trovato bene, dice che non servo, chi è che non serve? Vanno bene. Poi va bene, non è che sono schermati al 100%, ma vanno bene. Paghi su un tratto io. E poi Gio Mario, quello della ZG, qua la Marina che pesa più di me. Comunque con i moni eravamo come 20 kg su. E vanno bene, no? Della ZG con due strumenti, capito? Io qua ne ho uno dell'Inter, che è quello con due strumenti, da 10 ampere. Ma però guarda, no, come alimentatore non me ne manca a me, a cui l'alimentatore, poi c'è anche alimentatori buoni. Adesso dopo se riusciamo a riparare quell'altro, e quello è un bestione. 15 kg pesa e più. Certo, se ci sono quelle è un bombo, dai. Ma quello della detta giro stesso, me l'aveva regalato Claudio. E lo usavo 140, quello che si è messo un trono, poi mi ha fatto dei problemi. È andato a farsi benedire, l'avevo dato a Fabrizio, ma l'aveva sistemato. Fabrizio Occhi di Gatto. E ti ha messo a posto, vabbè. Quello campagna da 25 ampere della ZG. Vanno benissimo, la folla. Ce l'ho una quarantina d'anni quello lì. Sì, una quarantina d'anni, antemano quello avevo preso il Piano Umberto, allora c'era Torre Sciopevere in Piano Umberto, da Adriano. Cazzo. Chissà Adriano cos'è fredda, va, boh. Adriano, quello di Via Sorso. Sì, quello che oggi stava e vedeva roba del baracchini, alimentatori e altre cose vedeva. In Via Umberto era, più su della vecchia finanza, là. Io ho capito. Raggio capito. Boh, grazie a loro, siamo attenti in vivo. Ci ha mandato anche un messaggio, ci ha mandato. Vabbè. A Graziano. Oh, lui asco un'informazione. Io l'ho provato, ma boh, forse magari tu riesci a trovarlo da altre parti. Se riesci a procurarmi anche usato un pannello LCD per un Compact CQ56. LCD Compact CQ56. Ora vabbè, se ci arriva di altro, lui. Pagandolo, boh, 25. Circa 20-25 euro di più, perché loro costa una quarantina di euro. Pannello Compact. Pannello LCD CQ Compact a LED, CQ Compact, aspetta là, Compact CQ 56, ma anche la fame è anche 58, Vabbè. Riprendete. Capito Giovanni, ti ho mandato un messaggio, grazie, ma non l'ho visualizzato neanche su. Boh, ma infatti non l'ho sentito né ieri né oggi. Non ti posso dire niente, non l'ho sentito nemmeno io, Sono andato a farmi un giro zona mare, capito. Poi cioè, sono potuto entrare, poi sono rientrato. Aspetta, hai sul telefono, vero? Dai. Un attimino, quello prova a telefonare per vedere come sta. Non si sa mai, capito? Lui da qualcosa all'altro e faccia la cagitorra. Ehi, prova, prova. No, mi ha mandato il messaggio anche a me stamattina. Ce n'è uno, Lupo. Aspetta. Ah no, questo non è più disponibile, però. Allora, me ne ha mandato uno tipo, l'ho trovato, che vuole 35 euro circa, però ha delle macchie. Ma come cacchio ho fatto a vendere un pannello, le CD con delle macchie, graffiato? Vabbè, qualche graffio purtroppo si graffiano, vabbè ci sta, ma non che delle macchie, grado 3, no, grado C, non grado 3, grado C. Grado C. Quanto è grande? 15,6 pollici. Yes. Eh? Sì, attacco piccolo però c'ha. Cioè, tu inserisci il connettore flat, no? Non è largo, è stretto. C'ho anche il pannello vecchio a casa, capito? O se stavamo computer di un amico. Siccome mi ha detto che se ti procuravo un telefonino, così un telefonino andate, ma lo lasciamo, lo rifare e mi dà il telefono a me. 15,6 pollici, così. Eia. E ce n'è uno, 5120, 15.6 ricambio schermo, 34,87. 5,56, 15,6 pollici, ricambio schermo LED LCD, compact, Resario CQ56. Sì, ma l'ho capito, 156 euro. 34,87 più 9,22 di spedizione questo. Ah ragazzi, questo è 40, 50 euro nuovo. Devo risparmiare, capito? Da qui si dà fianchi. Ce n'è di vari prezzi. Com'è possibile che lo mettono anche a 35,13 euro usato? Mi pare strano che nuovo costava 40 euro. Cosa vuoi ti dica, Lugo? Possiamo vedere, allora. Sto guardando per la congestione nasale, vediamo poi la posso fare. Nuovo c'è spedizione gratuita, 57,80. Qua ti sento un po' disturbato, È nuovo, costa quasi 60 euro qua, fa vedere. Mi sembra strano che tu mi hai detto 40. Lugo, allora, non mi conviene più. Nuovi li vendono 40, perché, usati. Nuovi costano 60. 45, 82, siamo a 50, più 10, 39, siamo a 60, però nuovi. Lo so, però cioè, alla fine non mi conviene, perché già ci vuole spendere 40 euro, in più vuole un telefono, tanto mi costa, tanto mi vuole costare 10 euro, perché trovavo un telefono a 50 euro, 70 euro ci stava, faccio uno di più, su cumaculo. Scusato, sono sui 32, 35. Luca. Sì, c'era Fennicosa e la chiesa del Marco. Sì, senti, ci sono risetti, io sono rotto maccudensi, oh, dice, non attento va, però già dice che attende 5 minuti avanti. Ebbene, ci lo c'è questa ruota, me lo vedi. Ma lo senti tu? Ah, mi senti? Oh, il Parigi Luca è monte. No, sono qua, già lo senti, per me è guffo. No, Giovanni, sto guardando su YouTube per la congestione della sala, mi sono già 3-4 di gusti, con l'aso proprio talmente otturato. Otturato, otturato, otturato. E via, è entrato Graziano, così che... Da ancora i roghi, ancora i roghi, vero Graziano? Ehi, è bello Luca, e non è acceso che stavo facendo cosa, mi pare anche se invece sono già rotto manco dici, bubu. A me colpi, Luca. Ehi, è passato molto male. No, stamattina ero a fare delle commissioni, poi stasera ero per di cose nuove, e allora non è acceso, capito? Sì, io tranquillo, da, siccome ho detto, boh, non c'è problema. Ieri non c'ero perché sono uscito a farci un giro, a portare i cani lì, a fare una passeggiata, a Porto Torres. Ma vedi la chitarretta fredda, mamma mia. A cosa umiliava, a Saibedu. Ma Carimano è entrato Graziano, ieri non l'ho sentito per niente. Poi adesso... Oh, ha detto che piove, non lo so come pare che piove domani, boh. E la salva, questo si imparamo, è domenica me la dà imparamo, e la sto finendo, perché tanto, cosa con quella giustizia, che andava a farlo, poi la niente, un po' di banda, no, e c'era tutto a moscene, allora, per buttare e buttarlo, l'ho fatta a presi, l'abbiamo messo in freezer. No, li ho presi stamattina anche a tale segno io, gli asparagi, 3,50 al mazzetto, e l'ha fatti a mezzogiorno buoni, proprio belli, fresci fresci, a 3,50 al mazzetto solo, a piazza Lessini. Mazzetto da quanti? Quanti asparagi? Un mazzetto normale, non lo so, mica ricordo quanto viene. Ma c'è il classico mazzettino là, non hai mai visto gli seri vendili? Io i mazzettini che vedo io, cioè, che stavo annodato, però c'è gente che ne fa un bel, tipo le borse, viste quelle borse per la spesa, quelle lì piene, e 80 asparagi 5 euro. Non so quanto veniva, comunque viene cito, ne ho mangiato io, ne ho mangiato Paoletta e ne hanno mangiato le due mie figlie, ce n'è rimasto un po' e l'ho messo un tagliame più piccolo e l'ho messo nel forno. Comunque ci pago i vecchi, cosa di messo lì? Vecchio un uovo. Vabbè, poi c'è quelli che gli danno 100 asparagi belli, un tipo di vendetto, ma rimane un bel, tipo due borse di quelle della spesa piena, la sacca, capito, un bel, ma poi tutti belli, per non rovinarsi, diciamo così. Io li stavo da chilo, che se ne affutti, infatti l'ultimo che ci avevo li ho dati a uno del ristorante, ho detto dammi tot e te li prendi tu, infatti me li ha richiesti, e beh, a ricuperare a comprarli così, perché sono un bel cari, No, mio nipote, quando andava a fare, quest'anno non c'è voluto andare, andava con le borse, quelle della spesa, a piena, vieno che mi dizia, mi dai 30 euro e ti do, e mi dai la maneccia. Beh, da bene, infatti me la compravo sempre. Glielo ho anche più tempo. Boh. E gliel'ho preso due volte, 60 euro ci aveva fatto. Il giorno prima, e poi è venuto l'indomani con un amico suo, le hanno fatte insieme, un'altra borsa, a 30 euro. E invece li avevo nel fossetto, belli. Quest'anno non c'è andato. Vabbè, dai, io chiudo, ci sentiamo domani, dai, alle prossime, buon proseguimento, buona cena, ciao, grazie, saluto di casa e ci sentiamo domani se Dio vuole. E saluto anche a Luca il bello, se in ascolto. Ciao, grazie, riprendi tu chiudo io, dai. Ehi, ciao Giomari, buona cena, saluta tua moglie e ce la risentiamo domani, se coincide. Domani la mattina devo andare a farmi questa analisi e la poi me ne torno a casa. Ossia che faceva mi pare. Va bene, ok. Vai Luca. Sì, ciao Giovanni, da, saluto, buona cena, buon tutto. Saluti in casa, da, ciao. Avanti, Luca ci sei. Mi graziano. Io faccio il curaggio da pazzo, allucinato, riesco, manco con quello che hai detto tu. Quella pomata la mettere nel petto, non farsi nulla. Sono gomito, qua. Non riesco proprio. Otturato, Il bicchio di pittura non ce l'hai buffo. Forse, un buono di cassetti di Mariano, un raggio fiancoso, giusto, non mi posso fare. Strano, col bicchio se te lo sappa, hai provato a buffarti dove? Oh, i miei sono i sembiti, grazie, non fanno, sono proprio morto. Adesso metto il telefono a caricare che scarico, Luca, aspetta. E a zero. E a fai fa. Luda, spenda, ci sentiamo domani, mi vale ciurina. Sì, ciao, grazie, anche io, dai. Stavo ben anticipato, a domani, ciao. Ciao, saluta Marina anche da parte di Paoletta. Ciao, buonasera e buon tutto. Ciao, ciao. Sì, è ricambiato anche da parte di Marina, ciao. Ok. Samuele,